Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo anche delle indicazioni arrivate dall'Unione Europea all'Italia, ma non solo, perché ci sono anche delle indicazioni sulla Germania e sul surplus commerciale. Obiettivamente però il tema principale e le dichiarazioni principali riguardano l'Italia, sia da parte del vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea Valdis Dobrovolskis, che ha detto dovremmo aprire una procedura oggi. Aspettiamo, abbiamo già scontato gli impegni dell'Italia su migranti e terremoto, dovete correggere il vostro deficit dello 0,2, i conti sono a rischio anche nel 2017, l'Italia ha tempo fino ad aprile, però la correzione deve arrivare entro aprile o se no avvieremo la procedura di infrazione, e la decisione sarà presa in base alle previsioni economiche della primavera 2017, che di solito vengono pubblicate a maggio, questo per decidere se aprire o no la procedura di infrazione. Dopodiché, per carità, insomma, il tema, la richiesta c'è, e l'Italia su uno 0,2% dovrà adeguarsi a questo punto. Resta sullo sfondo un tema che cercheremo di affrontare per non parlare anche così, per non buttarci troppo giù e parlare sempre dello 0,2, 0,1, 0,3. Dicevo, il tema è se abbia un senso o no ragionare di una riforma complessiva del Trattato di Maastricht oppure continuare in questo modo col piccolo cabotaggio, mentre i partiti a livello europeo che criticano l'Europa tout court prendono sempre più piede. Lo dico perché sapete che chi vi parla ha sempre difeso, o meglio considerato una follia vera e propria, l'ipotesi di uscire al buio dall'euro, ma questa Europa non la modifichi, e questo è il tema che affronteremo più avanti, con micro correzioni. Il piano Juncker, come dicemmo in tempi non sospetti, era fuffa. Infatti sfido qualunque imprenditore a scrivermi che ha visto qualcosa dal piano Juncker, i famosi 300 miliardi di investimenti privati che si sarebbero dovuti generare attraverso 13 miliardi di fondi europei, tra l'altro non nuovi, stornati da precedenti destinazioni. Così come il fatto di dire sì, abbiamo dato un pochino più di flessibilità, però adesso dovete correggere lo 0,2 perché sostanzialmente ci sono le elezioni in Germania e bisogna mostrare la faccia feroce. Insomma, a me sembra che questo piccolo cabotaggio non sia altro che un avvicinarsi magari a piccoli passi verso un precipizio politico, nel senso che a forza di piccoli passi di cui nessuno si accorge ti frana la terra sotto. Forse avrebbe più senso, superata la fase, diciamo, elettorale in Francia e in Germania, decidere che questa Unione Europea con queste regole del tutto procicliche, cioè che aumentano la recessione quando sei in recessione, non va bene per buona parte dei paesi dell'Unione Europea. Devo dire che la Germania se ne frega bellamente della raccomandazione di Bruxelles sul disavanzo commerciale. La Germania ha fatto il terzo anno di fila di disavanzo commerciale record, pari al 9% del PIL, la differenza tra export e import. L'Unione Europea ha sempre detto che al massimo uno può arrivare al 6%, perché fin dall'inizio si disse: non vi possono essere paesi che, diciamo, devono risistemare i conti e paesi che esportano troppo. Cerchiamo di avere un equilibrio. Qualcuno dovrà risparmiare, qualcuno dovrà spendere un po' di più. Certo che se la Germania continua a non spendere e quindi non alimentare il mercato interno, anche, lo diciamo ogni volta, in infrastrutture di cui ha bisogno, contrariamente a quanto pensa qualcuno che mi scrive, e invece continua a incassare perché ha questo obiettivo, questa ossessione del deficit pari a zero, lo squilibrio lo crei. Abbiamo fatto molte volte l'esempio di una famiglia in cui il bilancio finale deve essere sostenibile, però se poi tu hai un fratello che non deve più spendere e quello che potrebbe spendere non sistema la casa, poi la casa crolla complessivamente. Uno non può spendere perché deve risparmiare, perché ha speso troppo nel passato, e siamo noi per esempio, e deve mettere in ordine i conti pubblici. Se poi il fratello, diciamo, ricco, che ha un attivo, non si mette neanche lui a sistemare le fondamenta o il tetto della casa, la casa va giù, con conseguenze negative per il fratello più indebitato, vedi l'Italia, ma anche per il fratello apparentemente più ricco, vedi la Germania, che, voglio dire, quando la casa crolla, crolla per tutti. Dicevo, perché lo dico? Perché la Commissione europea sulla Germania dice non, gli ultimi sviluppi economici non lasciano intravedere una correzione del surplus commerciale tedesco. La Commissione seguirà gli sviluppi economici e gli impegna a venire. Per l'Italia invece viene chiesta una procedura per quello che riguarda, e questo sarà il tema, uno dei temi trattati. Parleremo anche della settimana della moda che si apre a Milano e oggi si è aperto ufficialmente, al di là delle 174 collezioni e le 70 sfilate, 104 eventi. Milano resta, nonostante la concorrenza di Londra e New York, assieme a Parigi, la capitale mondiale del settore. Faccio notare che il fatturato della moda, del sistema moda, come si chiama in gergo, perché poi non c'è solo il grande stilista, ci sono tutte le aziende che fanno moda, magari non di alta moda, ma anche il prêt-à-porter, e sono fornitori dei grandi marchi. Il fatturato è cresciuto del 2,3% a quasi 13 miliardi di euro, con un export che assorbe il 61% della produzione. Pensate che per alcuni marchi, tipo Keaton, che è napoletana, ce ne siamo occupati nel passato, perché a Napoli, nonostante varie difficoltà, c'è un'eccellenza nell'industria della moda maschile. Dicevo, Keaton è arrivata a esportare il 90% della produzione. 84 miliardi di euro il giro d'affari complessivo, più 2%, dicevo, nel 2016, 630 mila i dipendenti, una delle 4A famose su cui si regge il Made in Italy. Anche se poi il rapporto del Centro Ricerca e Studi di Mediobanca dice: attenzione, l'Italia è possibile preda dall'estero. I gruppi del Made in Italy sono più piccoli dei francesi e ricchi di liquidità. Faccio notare che già tanto shopping i francesi lo hanno fatto in questi anni. Pensate solo alle operazioni di Pinot e di Arnaud sui grandi marchi italiani, da Bulgari, Bottega Veneta, Loro Piana e via. E via così. Devo anche dire, ma poi ne parleremo, che in questo caso è sbagliato parlare di colonizzazione. Se per colonizzazione si intende sfruttamento, così, come gli schiavisti una volta, è sbagliato, perché in realtà quello che noi abbiamo visto è che anche i due grandi gruppi, perché poi la Francia, che ha avuto questa capacità di creare due colossi con decine di marchi, è stata quella di investire e valorizzare le produzioni italiane. Ripeto, da Bottega Veneta, Bulgari e quant'altro, non si nota né un disimpegno né un cannibalismo per avvantaggiare i marchi francesi, si nota un investimento e un riconoscimento dell'eccellenza italiana, della capacità italiana di avere questa dimensione artigianale in prodotti industriali, che è questo il nostro grande segreto. E non è vero che i francesi, una volta arrivati qua, hanno, diciamo, così munto o hanno svuotato dall'interno i nostri grandi marchi, li hanno valorizzati, li hanno posti anche su una scala internazionale. Lo dico perché bisogna essere obiettivi su questo. Detto ciò, e quindi capire se è un problema o no avere anche l'interesse dei gruppi francesi, e vedere anche poi chi sono i grandi compratori, cinesi, russi. E tra l'altro è un settore, quello della moda italiana, lo dico perché uno magari pensa solo alle modelle, così, si può dire fighettume in giro per Milano in questi giorni, ma in realtà attenzione, perché dal 2011 al 2015 sono state assunte 57.000 persone, sono stati creati 57.000 posti di lavoro veri nel settore moda. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo chiaramente anche dell'inflazione, che a gennaio tocca l'1%, è il livello più alto da 3 anni in Italia, dall'agosto del 2013. Devo dire che è balzata in tutta l'Europa l'inflazione, più 1,8%. Per quello che riguarda l'Italia c'è l'inflazione importata, ma sono aumentati soprattutto i beni alimentari, tant'è che è triplicato la cosiddetta inflazione da carrello della spesa, dei beni a maggiore a maggior consumo e utilizzo all'1,9%, era 0,6% l'inflazione di questi beni a dicembre, più 1,9% a gennaio, triplicati. E questo dovuto anche e soprattutto al tema delle verdure e dell'ortofrutta, un aumento del 20% rispetto al gennaio 2016, è il più alto da sempre, dall'inizio delle serie storiche. Tant'è che poi lì c'è stato il tema nel periodo dicembre e non solo del maltempo, per essere buoni, nel centro Italia, ma non solo, perché aumentano anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto che riguardano la casa, per cui cura della casa e della persona. Certo che quello che il dato che fa più specie, che balza agli occhi, è quello relativo al prezzo della frutta e dell'ortofrutta. Sale in tutta Italia, sopra il 2% a Bolzano, a Roma invece più 0,7%, e in fondo alla classifica è con Bologna più 0,6%, in mezzo le altre 1,5% l'inflazione a Trento, Milano, Napoli e Bari. 349-238-6666, dicevo, per SMS e WhatsApp. La borsa, e concludo le notizie in breve, è al 2,70% rialzo di ST Microelectronics, all'1,40% Luxottica, all'1,20% Ferragamo, all'1% Case New Holland. Fronte opposto, Banco BPM meno 4,60%, Biper meno 3,80%, Azimut meno 3,30%, Saipem meno 3,20%, Mediobanca meno 3%, Banca Mediolanum meno 2,60%, UbiBanca meno 2,20%, come Unicredit, Intesa meno 1,50%, come Eni e Buzzi Unicem. Con queste variazioni l'indice complessivamente perde lo 0,75%, mentre per via dei bancari soprattutto, mentre Parigi è invariata, Francoforte guadagna lo 0,2%, Londra lo 0,3%, il Dow Jones è invariato in questo momento. Partiamo proprio dalle borse e dalle incognite geopolitiche, mercati nervosi, una volta si diceva laterali, movimenti orizzontali, insomma mercati nervosi anche per le incognite geopolitiche, dicevo, e su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Qualcuno mi scrive: evviva, allora siamo più ricchi, Barisoni, ma vai a fare in... Io non ho mai detto che siamo più ricchi, abbiamo sempre detto che l'inflazione, se cresce per maggiori consumi, è un buon segnale, perché tu consumi di più e i prezzi vanno sotto tensione e aumentano. Se cresce perché si chiama inflazione importata, cioè crescono i prezzi delle materie prime, non è un buon segnale, perché tu non hai più potere d'acquisto, ma i prezzi crescono, perché crescono i prezzi delle materie prime, nonostante non si abbia l'euro e non la lira, e non è un buon segnale se cresce comunque per fenomeni esogeni, cioè il prezzo dell'ortofrutta è aumentato non perché improvvisamente tutti siamo diventati vegani e vegetariani, dico per fortuna, perché abbiamo 330.000 addetti nel settore carni e vorrei anche vedere cosa facciamo fare a quelle persone, ma perché ci sono stati eventi di carattere meteorologico che hanno fatto partire e schizzare i prezzi, e anche questo non è un buon segnale. Quindi, al di là di dove devo andare io, le do una spiegazione e poi al resto ci pensi da solo. I 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Con i destini del mondo in altalena, i rapporti fra Trump, la Gran Bretagna, l'Europa, la Germania, la Francia e l'Italia sono ormai circondati dalla confusione. Persino i mercati finanziari sembrano essere stati contagiati dalla febbre dell'irrazionalità. Che cosa sta succedendo? Semplicemente che il mercato continua a salire, poi si ferma sulla base soltanto di piccole indicazioni che vengono dal mercato, da qualche profitto, da qualche tensione geopolitica, ma senza dare una direzione precisa né agli investitori né soprattutto a quei piccoli risparmiatori che stanno seguendo con grande apprensione lo sviluppo di quella che per molti è una bolla speculativa. Prendiamo ad esempio quanto è avvenuto oggi: grande partenza sui mercati asiatici, brillante performance delle borse europee, poi improvvisamente apre Wall Street e dal record storico che avevano segnato gli indici mondiali, cioè la somma di tutti gli indici di borsa del mondo, proprio questa mattina, siamo scivolati nuovamente al di sotto delle soglie del primato. Il ritorno un po' di gloria sui titoli di Stato, le incertezze sull'inflazione, le prospettive di rialzo dei tassi di interesse che restano sempre un po' più appese all'aria, anche se i nuovi dati sull'inflazione in Europa e in Italia lasciano pensare che la prosecuzione degli aiuti straordinari della BCE non sarà purtroppo infinita. Diciamo purtroppo perché grazie proprio al denaro della BCE i mercati finanziari hanno gonfiato quella che sembra effettivamente una bolla speculativa che ha portato le valutazioni dei titoli ai livelli che sono vicini persino, ma speriamo che non sia così, ai livelli della crisi del 29. Comunque sia, una cosa è certa, finché c'è denaro c'è speranza e la liquidità delle banche centrali in questo momento è il filo su cui si reggono non soltanto i mercati ma a quanto sembra anche le sorti della politica europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, altre notizie in breve. Adesso guardate, ci sono altri programmi, uno in particolare che ci segue, che si sono occupati dei vegani, non me ne frega nulla, nel senso che uno è libero di mangiare quello che vuole, di ascoltare le indicazioni che arrivano dai medici, dietologi e quant'altro. L'unica cosa che non si può sentire è dichiarare fuori legge alcuni prodotti per linee di altre persone, quindi va benissimo, chi vuole essere vegano sia, chi vuole essere vegetariano lo sia. Dopodiché io ho fatto solo notare che insomma, noi siamo esportatori netti anche del settore cane. Qualcuno mi dice ma quegli operai, i dipendenti del settore cane li possiamo reimpiegare? Quando fu dichiarata illegale la schiavitù, sapete che è un esempio veramente che c'è, cioè, quando come abbiamo sistemato i milioni di lavoratori nella tratta degli schiavi quando è stata dichiarata fuori legge la schiavitù, e quelli che costruivano carrozze, cavalli, maniscalchi, sei patetico. Ma a parte il fatto che se lei si studiasse la storia saprebbe che gli schiavi hanno continuato a fare gli schiavi sotto altra forma anche negli Stati Uniti, e non è che hanno cambiato lavoro. Dopodiché non capisco veramente l'esempio, cioè uno vuole essere vegano, vuole essere vegetariano, vuole essere astemio, benissimo. Ma da lì a chiedere la proibizione dell'alcol, la proibizione della produzione di carne, ma siete fuori di testa. Fuori di testa, veramente. Dopodiché io ho solo detto, perché mi sono rotto anche le scatole di certi talebani fascisti, perché ripeto, un conto è la scelta personale e un conto è dire che io non posso mangiarmi un salame o mangiare un pollo o mangiare un tortellino ripieno. Faccio notare che noi abbiamo un export agroalimentare che vale 30 miliardi di euro e che non siamo la Norvegia, noi esportiamo anche carne e prodotti della carne, e faccio notare che da questo punto di vista ci sono 330.000 addetti nel settore complessivamente dato. Cosa facciamo? Li mando a dormire a casa dei vegani, dei vegetariani? Ve li prendete voi? Ma poi non capisco il tema, cioè la libertà è anche questo, no? Io posso sapere che il salame, se mangiato in quantità eccessive, mi farà male? Benissimo, avrò il colesterolo alto se ne mangio troppo, il medico mi dirà riduci il colesterolo, e se non voglio ridurre il colesterolo saranno fatti miei, no? Il resto si chiama fascismo, ok? Però mi vuoi imporre anche quello che devo mangiare? Ripeto, uno è anche libero di bersi 8 litri di vino al giorno, sa che andrà a morte certa per cirrosi epatica, ma sono fatti suoi, no? L'importante è che non guidi, che non molesti le persone, se no esiste la legge, vieni preso e disturbo la quiete pubblica, oppure guida in stato d'ebbrezza, c'è già la legge, qual è il problema? Al massimo puoi dire che insomma mangiarsi un intero salame e poi mettersi in macchina non è il massimo quanto, diciamo, attenzione alla guida. Ah, no, paghiamo per la sanità. Va bene, allora facciamo lo stato etico e mi dica lei cosa devo fare. Da tutto me lo dica. Siccome lei contribuisce per la sanità e se io mi ammalo ricado su di lei, però allora io vengo a controllare anche quello che fa lei. cosa facciamo, no? Il controllo, il grande fratello sulle abitudini. Ma poi, dopodiché, io non penso che ci sia nessuno che tenti coscientemente, diciamo, il suicidio. Ci sono abitudini alimentari, ci sono gusti, c'è quello che è tutto attento e mangia solo semi di quinoa, semi di questo e semi di quello, e basta, e va bene. E poi c'è quello che non gliene frega nulla. E allora si chiama libertà. Ma vado da parte. Andiamo avanti, dai, che oggi sono tante notizie. Ci occuperemo anche della Cassa di Risparmio di Genova. Adesso però io dico una cosa: se mi scrivete un altro messaggio di vegani, io ricordo cosa c'era scritto a Milano su un muro, come battuta, perché se iniziamo così non è più finita. Uccidi un vegano, salvi una pianta. Allora vedi che c'è sempre qualcuno che può essere salvato. Allora andiamo avanti. Cassa di Risparmio di Genova. Berneschi è condannato a 8 anni e 2 mesi, l'ex presidente di banca Cassa di Risparmio di Genova, nell'ambito del processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. Ne parleremo. Mancava che mi sparassero, ha detto l'ex presidente di banca Cassa di Risparmio di Genova Berneschi, uscendo dall'aula pochi minuti prima dopo la sentenza. Nessuno arriva tanto, Berneschi, ma ci mancherebbe. Dopodiché non riesco a trovare i fazzoletti per le lacrime, per la sua condizione, abbia pazienza. Andiamo a vedere, poi ne parleremo, come è stata ridotta la Cassa di Risparmio di Genova. Io dico delle volte almeno stare zitti. I taxi, la maggioranza dei segretari sindacali ha approvato l'accordo raggiunto ieri, cioè un mese di tempo. Il ministro Del Rio ha detto una riforma seria senza cedere alla piazza, uno stato serio dà diritti a tutti, a quelli che hanno investito il loro denaro e ai cittadini che devono potersi muovere anche utilizzando le innovazioni più recenti. E poi il ministro Calenda ha detto non si può accettare di pensare che le decisioni vengano prese sotto le pressioni della piazza, perché questo non è accettabile in nessun paese democratico. Su Alitalia, sempre il ministro Calenda ha detto vogliamo evitare iniziative unilaterali, lo sciopero era incancellabile, ora si torna al confronto. Confermato lo sciopero per domani dalle 14 alle 18 e lo ha confermato anche il segretario nazionale della FIT CGL Nino Cortorillo. I punti della protesta li ha ricordati Cortorillo al microfono della nostra Anna Marino. Ovviamente il confronto può riprendere solo sulla base del fatto che l'Italia non ponga l'ultimatum che entro il 28 febbraio o si fa un accordo sul contratto nazionale, cosa impossibile ovviamente visto i pochi giorni a disposizione, o lei si sentirebbe abilitata ad agire in modo appunto unilaterale. Naturalmente senza l'impegno degli azionisti e senza un piano industriale e senza conoscere se vi saranno esuberi e quanti, è impossibile approcciare anche al tema del contratto nazionale. L'altro tema attiene agli ammortizzatori sociali di questo settore, regolati da legge. La non funzionalità di INPS, se non direttamente l'ostacolo di INPS, ha posto centinaia, se non qualche migliaio di lavoratori in assenza di qualunque ammortizzatore sociale. Cioè, dopodomani da che cosa riprendono le trattative? Da un'affermazione di Assa Aero e di Alitalia, noi andremo a sentire se così sarà, che fino a quando non si prende un impegno comune, perché il contratto, come dice il nome, è una norma pattizia tra le parti, all'Italia non darà applicazione unilaterale a nessuna norma. Vorrei sottolineare che il contratto di lavoro è qualcosa che viene sempre regolato tra le parti. Un regolamento aziendale è una decisione unilaterale dell'impresa. Non vi sono sul contratto nazionale precedenti che fanno passare direttamente dal contratto nazionale al regolamento. Allora, mentre ultima notizia prima di passare al tema d'approfondimento, anzi andiamo sul metro, la pubblicità, poi parleremo della moda, del giro d'affari della moda. Oggi appunto siglati gli accordi di cui parlavamo ieri in Cina durante la visita del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, l'accordo tra la Cassa Depositi e Prestiti, la sua contratta nazionale di energia e la Shanghai Electric Corporation per lo sviluppo e la condivisione di investimenti sul mercato asiatico, firmato oggi alla presenza del Presidente della Repubblica appunto Mattarella e del Presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, dall'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabio Gaglia e dal Presidente di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini, dal Presidente di Shanghai Electric Corporation Zheng Jianhua. 349-238-6666, sms, whatsapp, meteo, pubblicità, poi il giro d'affari della moda e anche le tendenze, parlo di business, non stilistiche, della moda, e poi parliamo del Cassa del Premio di Genova, dell'inflazione e di questa benedetta, maledetta Europa. Focus Economia. Something good. 17:38 minuti. Dunque, dicevo, oltre alle 174 collezioni che verranno presentate, abbiamo una moda, un sistema moda che ha visto il fatturato crescere nel 2016 del 2,3% a quasi 13 miliardi di euro, export che vale il 60% della produzione, e quindi siamo sugli 8 miliardi, 9 miliardi di euro, e l'intero comparto del tessile abbigliamento vale 84 miliardi di euro, anche qui più 2% nel 2016 rispetto al 2015, e dà lavoro a 630.000 persone. Giulia Crivelli, uno del Sole 24 Ore, che oltre che essere una voce di Radio 24 sulla rassegna stampa europea, è anche la firma del Sole 24 Ore per la moda. Buonasera. Buonasera a tutti. Giulia, da questo punto di vista il settore, che pure ha avuto qualche difficoltà, ha chiuso bene il 2016, nulla da dire. Sì, anche il 2015 era andato addirittura un pochino meglio, e le prospettive per il 2017 sono comunque di crescita, e sappiamo che non è proprio così per la nostra economia, o comunque che sopra l'1% per ora è ancora un miraggio. Quello che mi preme dire è che veramente a Milano, io capisco che i milanesi siano anche a volte un po' scocciati, e meno male che i taxi hanno ripreso a funzionare, però qui c'è la punta di questo iceberg di cui parlavi, il sistema moda e gli 84 famosi miliardi, se mettiamo anche gli occhiali e parte della gioielleria e parte della cosmetica, ed è una filiera che nessun altro paese al mondo ha, che qualsiasi altro paese ci invidia, e noi dobbiamo cercare di valorizzarla. Questa è la vetrina ideale. Allora, che cosa manca? Perché si può sempre fare di più. Vedevo il rapporto Mediobanca che si basa su dati 2015, nel frattempo però ho visto che Armani, a proposito di prede e predatori francesi su prede italiane, Armani si è blindato, tra virgolette, perché la fondazione Giorgio Armani è entrata nel capitale del gruppo, che vale 2 miliardi e 600 milioni di ricavi e 500 milioni di euro di margine operativo, 640 milioni di euro di liquidità. Sì, complimenti, per blindare il gruppo Armani, no? Sì, il futuro di Armani è una delle grandi così incognite, perché non c'è una vera e propria successione, e questo è un problema. Ci sono aziende come Ferragamo che hanno scelto di quotarsi proprio per sistemare anche la famiglia, che diventava sempre più numerosa. In Italia non c'è ancora stato un vero e proprio passaggio generazionale, vediamo che Armani è ancora al suo posto, e una strada può essere l'ingresso dei private equity per crescere, perché se no succede quello come dicevi tu nella prima parte, che chi invece ha queste enormi liquidità come LVMH e Kering, che sono i due più grandi gruppi al mondo, Arnaud e Pinot, si comprano le prede, le aziende più appetibili. Ecco, però su questo, ripeto, ci sono stati casi, e purtroppo abbiamo raccontato, penso all'Alcoa di Portovesme, casi di acquisizioni internazionali che sono andate poi non a valorizzare, anzi a chiudere la filiale italiana in una logica, diciamo, globalizzata. Nel mondo della moda, però non vorrei dire un'inesattezza, a me è sembrato che invece tutte le volte che un euro è stato messo dai francesi, poi sostanzialmente qualche cinese ogni tanto, insomma, nei marchi italiani, è stato messo per valorizzarlo, cioè non per svuotarlo da dentro, ma per dire: bene, ti porto anche, magari ti do una piattaforma internazionale, visto che mi chiamo Louis Vuitton, Moët Hennessy, o mi chiamo Pinot, e ho messi assieme tra i marchi più prestigiosi del pianeta, tu avrai anche una proiezione internazionale. Lo dico non per difendere, io è chiaro che personalmente preferisco sempre che ci sia un fondo italiano, un acquirente italiano, ma per non demonizzare l'eventuale ulteriore ingresso principalmente dei francesi. Ma i più bravi sono stati i francesi, poi anche i cinesi stanno facendo bene, anche il Qatar, perché Valentino, che ha citato nella classifica di Mediobanca, più 102% nel 2016, probabilmente sarà un andamento simile, pensate, quindi un raddoppio di fatto dei ricavi. I francesi in assoluto, perché quello che hanno fatto con marchi che erano prestigiosissimi, un po' impolverati come nel caso di Fendi, invece già super prestigiosi, quindi solo da rilanciare ulteriormente come l'oro piana, hanno investito tantissimo. Tra meno di un mese Bulgari inaugura una fabbrica gigantesca, ecosostenibile, ha assunto, addirittura ha potenziato le scuole degli orafi nella zona di Valenza per avere forza lavoro da assumere, e la inaugura appunto nel distretto di Valenza, che insieme a quello di Vicenza è lo storico dell'oro. Oreficeria soprattutto. Sì. Italiana. Ancora, per quello che riguarda invece i mercati a cui ci rivolgiamo, dicevo che e va il mio applauso ai sarti napoletani. Uno può pensare che i sarti napoletani siano solo Marinella, a parte il fatto che Marinella ha delle dimensioni ormai piccole, ma insomma. Però a Napoli ci sono, adesso vado a memoria perché non me li ricordo tutti, Keaton sicuramente, 100 milioni, oltre Helmond, 100 milioni di fatturato, Harmont & Blaine, altro marchio storico, è tutta sartoria, diciamo, napoletana, che ha avuto la capacità di proiettarsi su base internazionale. Quando vedo che Keaton fa il 90% di export, sono numeri che a mia memoria vedi solo in alcuni settori, tipo il vino, per alcune case vinicole, e forse il legno arredo per qualcos'altro, cioè il 90% è una cifra enorme. Sì, loro hanno sofferto negli anni in cui produrre in Italia voleva dire avere margini più bassi in momenti in cui anche i ricavi calavano, e quindi era difficile, hanno resistito come tanti altri, addirittura hanno attuato del reshoring, ma questo lo sta facendo in un altro settore. Ecco, reshoring vuol dire che torni a produrre in Italia, diciamo. E quindi hanno resistito, e tutto il mondo scopre, compresi i famosi millennials nati dopo il 1980, che sono i prossimi consumatori di tutto e anche di prodotti di lusso, o comunque anche il lusso poi diciamo di alta gamma, scoprono che il made in Italy è un valore per tutti, perché il valore c'è una corrispondenza tra valore e prezzo, cosa che in moltissimi altri casi non c'è, e i millennials questo lo cercano, lo vogliono, lo pretendono. Allora, qualcuno mi fa notare che a Napoli c'è anche Original Marines, è vero? È vero, siamo naturalmente su tipologie di prodotto diverse, Harmont & Blaine e Casual Wear, Original Marines anche, tra l'altro loro un po' la produzione l'hanno delocalizzata, anche se la creatività è italiana, Keaton è proprio alta sartoria maschile e anche femminile, hanno presentato proprio oggi la collezione donna. Oggi evidentemente cosa siamo a metà settimana, qualcuno inizia a accusare un po' di stanchezza, ma chi se ne frega e chi può permettersi la moda e i suoi prezzi, siamo gente normale, Barisoni pari d'altro. Guardi, intanto io non sto parlando di chi si può permettere l'haute couture, si dice così, immagino, di Armani, di Dolce Gabbana, sto parlando dei 630.000 persone e quindi 630.000 famiglie che lavorano grazie ai nostri marchi, magari questo interessa più la gente, come dice lei, la gente comune. A me interessano gli occupati, non chi si permette le collezioni, di cui ovviamente auguri, bene, sono contento per loro, ma non è l'oggetto del programma. Parliamo di un settore produttivo, se non le bastano 84 miliardi di euro, mi suggerisca lei un tema di cui parlare. Invece, restando sulla la parte, diciamo, dei mercati dove andiamo, ho visto alcuni dati nello shopping, diciamo, i big spender sono cinesi, russi, e tra l'altro Milano si conferma la meta preferita per il 34% delle vendite di moda nel nostro paese, segue Roma col 18%, e poi gli altri settori. Dov'è che dovrebbe puntare un po' di più la nostra moda? Ma adesso c'è, tra l'altro, questa lo fanno molte società, si tende soprattutto per l'alto di gamma a considerare appunto le nazionalità e non i paesi, quindi i cinesi sono quelli che comprano di più, una volta erano i russi, però i russi per esempio adesso stanno ricominciando a comprare a casa loro, domani inaugura un negozio a Mosca un marchio, il Zanellato, che viene importato dalla stessa società Cashmere and Silk che importa Cucinelli, quindi insomma, e tra l'altro proprio proprio Cucinelli oggi mi ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: noi, io devo ringraziare chi mi fornisce e lavora il filato di Kashmir, che nel suo caso è soprattutto Cariaggi, perché è una parte della filiera e noi esistiamo gli uni grazie agli altri. E su questo, solo su questa settimana, diciamo sempre che non si riesce a fare sistema in Italia. Pensiamo al libro, siamo riusciti a organizzare due fiere, ce n'era una bellissima a Torino, ne vogliamo una anche a Milano. Pensiamo all'auto. Ecco, a Milano per la prima volta questa tornata, e a settembre sarà ancora più evidente, sfilate fiere insieme, e sarà è una vetrina che nessun altro può avere. Ci avremo Mipel per la pelletteria, Micam le scarpe, Mido gli occhiali, settore che esporta il 90% della produzione, e poi tutte le sfilate. Vuoi vedere che riusciamo a fare sistema? Mettendo assieme, diciamo, vari aspetti del mondo della moda, chiamiamolo così in senso lato, perché poi la pelletteria, tra l'altro, è quella che sta trainando i ricavi, no? Sì, la pelletteria va bene perché, visto che la maggior parte degli acquisti di moda li fanno ancora le donne, anche se nel 2020 forse il gap si ridurrà. Alle donne, lo dico anche, vale anche per me, le donne vanno pazze per le scarpe e per le borse, è un settore che soprattutto nel medio alto e alto di gamma è importantissimo. Poi ricordiamoci, Prada sfila, Gucci sfila, Ferragamo sfila, ma il 70% dei ricavi viene dalla pelletteria. Esatto, non so se i vegani siano contrari anche alla pelletteria, sì, chiedo, ah sì, mi fa notare una delle mie assistenti che è vegetariana da sempre. Che anche la pelletteria è contraria, va bene, quindi ai disoccupati, diciamo, del settore carni dovrei aggiungere anche i disoccupati del settore pelle, anche per le scarpe, vale, sì, certo, va bene, tutti in zoccoli. Oggi è stato ufficialmente chiesto a Vogue, all'edizione italiana, di non pubblicare più foto di pellicce. Vabbè, allora, per carità, insomma, tutto quello che volete, devo stare zitto oggi, allora... Fermo restando che non ho nessun conflitto di interessi col mondo delle pellicce, né della pelle, le scarpe, uno le mette come vuole, mi citate anche Barba, Napoli, ci mancherebbe, adesso stiamo parlando anche di... No, ma certo, ce ne sono tantissimi. Di marchi più o meno sofisticati, più o meno da mass market. Penso a Maison Cilento. Maison Cilento, così... Dunque, qualcuno dice: ma lasci stare borse da 2000 euro, le lasci ai russi. Guardate, allora, intanto sarebbe bello che se questo paese tornasse a crescere si avesse anche di nuovo la possibilità di comprare altra moda, ma il problema non è chi me la compra, non so come spiegare, il problema è che noi riusciamo a vendere le borse da 2000 euro, ci sono degli operai, degli artigiani, dei fornitori, dei trasportatori italiani e anche di chi fa i macchinari per produrre queste borse che sono in Italia, poi che se le compri il cinese, il russo, il vietnamita, l'islandese, non me ne frega nulla, ok? Diceva Mao, così faccio contenti alcuni, non è importante il colore del gatto, basta che pigli il topo. Il nostro topo si chiama vendere, aumentare quote di mercato nei settori a livello internazionale, anche perché è chiaro, e questo lo sappiamo tutti, che la ricchezza in questo, diciamo, ventunesimo secolo non si sta formando in Europa, da noi è già tanto se riusciamo a mantenere, né necessariamente negli Stati Uniti. I nuovi ricchi sono tutti nelle economie emergenti e lì andranno, se riusciamo, siamo bravi, a comprare italiano, perché riconoscono la nostra capacità nel gusto e nello stile, che poi significa danè, skei, soldi. Questo è, diciamo, l'oggetto anche del programma. Grazie a Giulia Crivelli, traffico. Focus Economia. Cambiamo radicalmente tema, prima di arrivare alla borsa parliamo di quello che è successo oggi a Genova. Allora, condannato a 8 anni, 2 mesi, l'ex presidente, vediamo se qua riusciamo a mettere d'accordo tutti, vegani, non vegani, gente che pensa che la moda non dia posti di lavoro e gente che invece ci vive con la moda. Dicevo, 8 anni, 2 mesi, l'ex presidente della Cassa di Risparmio di Genova, Giovanni Berneschi, che era il, non si dice doge a Genova, insomma era il dominus della Carige, e questo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova, che portò all'arresto sia suo che di altre 6 persone. La sentenza, dopo 2 ore di camera di consiglio, lui fu arrestato nel 2014, adesso sarà sottoposto a libertà vigilata per tutta la condanna. Condannati a 7 anni anche Ferdinando Menconi, ex amministratore delegato del ramo assicurativo, 5 anni e 8 mesi per il commercialista Andrea Vallebuona, 9 anni e 2 mesi per l'imprenditore Sandro Maria Calloni, 8 anni e 6 mesi per l'imprenditore Ernesto Cavallini, 1 anno e 2 mesi per il commercialista Alfredo Averna, 1 anno e 1 mese per il notaio Pier Maurizio Priori e 1 anno e 2 mesi per l'avvocato Ippolito Giorgi di Vistarino. Francesca Amisano, nuora di Berneschi, va patteggiato la pena a 2 anni e 3 mesi, quindi riconoscendo la colpa, oltre alla confisca di beni per un totale di 1.300.000 euro. Berneschi avrà la confisca di 26 milioni di euro. Complimenti. 4 milioni verranno confiscati a Calloni, 26 milioni di euro a Menconi. Io spero che fossero tutte eredità di famiglia. 30 milioni di euro a Cavallini. E Berneschi, uscendo, dice: mi aspettavo l'ergastolo, mancava solo che mi sparassero. I legali dicono: siamo stupiti da questa pronuncia. Io ho detto con una battuta, insomma, i fazzoletti per le lacrime, compassione di violino, non riesco a trovarli. Raffaella Calandra, ricordaci da cosa nasce e qual è l'accusa, e da cosa nasce poi l'inchiesta che ha portato la condanna, e anche con i sequestri. Obiettivamente, uno non è che mi può dire Menconi. Non è che può dire ex ministero legato al ramo assicurativo di cosa sono 30 milioni, sono 26 milioni, sono i risparmi di una vita. Prego, Raffaella. Il totale è 86 milioni di euro, il totale delle confische disposte oggi dal Tribunale di Genova, quindi già questa cifra dall'ordine della grandezza di quella che i magistrati genovesi avevano considerato una maxi truffa che avrebbe fruttato agli imputati, 7 imputati, 22 milioni. Qual è il senso di questa inchiesta, che hai già in parte ricordato? In sostanza, negli anni sarebbero stati riciclati soldi, fatti rientrare anche con gli spalloni, il più classico dei modi, sarebbero state comprate quote di alberghi e di società a prezzi gonfiati per poter poi reinvestire le plusvalenze, soprattutto in Svizzera. Questa maxi truffa in particolar modo avrebbe sottratto soldi a, come ricordavi, al ramo assicurativo del gruppo Carige, quindi Carige Vita Nuova, e in sostanza avrebbe beneficiato soltanto questi 7 imputati. Da qui questa inchiesta, anche abbastanza veloce nei tempi, che ha portato non solo a queste confische pesanti e anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma dovranno dare soldi, risarcire anche le parti civili, compresa la stessa banca, che però poi il 28 marzo ha messo ai voti un'azione di responsabilità nei confronti, tra gli altri, del suo ex storico presidente. Beh, insomma, 86 milioni di euro, va bene, no? E io devo trovare i fazzoletti per piangere per Berneschi. Speriamo che sia l'inizio di una serie di processi in cui, col massimo rispetto dei diritti delle parti, si arrivi a capire chi ha la responsabilità nell'aver distrutto valore su gruppi bancari, Cassa di Prima di Genova, e poi andiamo avanti con gli altri: Pop Vicenza, Veneto Banca, Monte dei Paschi, Etruria, Chieti, Ferrara, Marche, GR24. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa oggi, giornata devo dire abbastanza priva di spunti. Non voglio tornare su Berneschi e la Cassa di Risparmio di Genova, abbiamo già detto a mio avviso sufficienza. Oggi, dicevo, meno 0,80% Milano, soprattutto per il settore bancario e risparmio gestito, già da ieri dopo le previsioni di Mediolanum, mentre Parigi fa più 0,15, Francoforte più 0,20, Londra più 0,40 e Dow Jones è invariato. Devo dire che c'è un po' di tensione nell'area euro, ma adesso ne parleremo. Uno spread che si torna a riavvicinare 200 punti, male le banche, quindi meno 4,24 Banco BPM, meno 3,80 Biper Banca, perché se aumenta lo spread le banche, che hanno molti titoli di Stato, ne pagano le conseguenze, tra virgolette. Banca Mediolanum, dicevo, invece sul risparmio gestito E dopo i dati diffusi ieri, meno 3,20, anche Azimut meno 3%, Mediobanca meno 3,36, Unicredit meno 2 come Ubibanca. Poi qualche realizzo sul petrolio, ieri erano andati bene i titoli e quindi Eni meno 1,50%. Debole oggi anche Telecom meno 1,30 come è nel Mediaset meno 1,20%. Su Mediolanum il dato sul 2016 è di un utile in calo a 393 milioni di euro, del 10% rispetto ai 439 milioni di euro, e il dividendo totale di 0,4 euro di cui 0,16 di acconto a fronte degli 0,3 euro pagati complessivamente per l'esercizio 2015. Bene invece ST Microelectronics più 2,80%, qui c'è, sono giudizi positivi, report positivi degli analisti, e anche un settore che guarda con interesse la prossima mossa di Toshiba, la vendita della divisione, diciamo, memorie. Ci siamo occupati anche di Toshiba in queste settimane, che ha una crisi dovuta a, lo ricordo, al settore nucleare, non tanto al settore elettronica da consumo. Ancora su Telecom, nonostante vari report positivi, devo dire che ci sono preoccupazioni così sul settore, ma nulla di particolarmente significativo. Salvatore Ferragamo più 1,13, Case New Holland più 0,70. Migliori e peggiori, EMS più 27, Sintesi più 12, Gequity più 9,20, Fronte e Fincantieri che anche per gli accordi cinesi, ma non solo, più 4,60. Fronte opposto, Novare meno 7,14, Credito Valtellinese meno 5,38, TAS meno 5,40, Premuda meno 5%. Dato di oggi sull'inflazione, invece, torniamo a parlare di economia reale. Ha raggiunto l'1% a gennaio, e l'1% è ancora poco, è sicuramente poco, ma è il livello più alto da 3 anni e mezzo a questa parte, cioè dall'agosto del 2013, quando fu dell'1,2%. Abbiamo sempre detto che l'inflazione può essere buona o cattiva a seconda che segnali un aumento dei consumi e quindi una tensione sui prezzi, oppure che invece sia la conseguenza della cosiddetta inflazione importata, costano di più le materie prime e a partire da quelle energetiche, oppure ci sono rialzi dei prezzi improvvisi dovuti a fenomeni esterni. Perché lo dico? Perché in questo caso siamo ancora sull'inflazione, a mio avviso, cattiva. Un po' è dovuta ai prezzi dell'energia, molto dovuta anche al prodotto dell'ortofrutta, se ho ben visto più 20%, che è il rialzo più forte da quando misuriamo le serie storiche, dal 1997, 20,4% rispetto a un anno prima. Tant'è che il carrello della spesa, cioè i beni più acquistati, crescono più dell'inflazione media, più 1,9% l'aumento dei prezzi, beni alimentari, ma anche cura della casa e della persona. Chiedo conferma però al direttore del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella. Buonasera Bella. Buonasera. Allora, è un'inflazione che noi chiamiamo, per farci capire, non buona, cioè che non deriva da un aumento dei consumi. Confermo. Ecco, e quindi... Il balzo dell'ortofrutta è dovuto agli effetti meteorologici? Al meteo. E poi, come diceva lei, io confermo che per me questa non è un'inflazione per niente rassicurante, per niente gradevole. Viene tutta dall'aumento del potere d'acquisto delle popolazioni che hanno a che fare con la produzione, l'estrazione e l'esportazione di petrolio. Il nostro potere d'acquisto, simmetricamente, rischia di scendere. E questo è tanto più brutto per il nostro paese, perché mentre gli altri paesi europei, i principali paesi europei, associano tassi di inflazione dell'1,5 e dell'1,9 con una crescita altrettanto elevata dell'1,5, noi abbiamo una crescita molto, molto ridotta, e il fatto che l'occupazione è prevista un po' da tutti in rallentamento a causa del fatto che abbiamo tolto, ridotto gli incentivi, e ci prospetta un 2017 con un'inflazione intorno all'1,5% nel nostro paese, con una crescita modesta, e quindi con un rischio di ulteriore riduzione del potere d'acquisto e con riflessi negativi in termini di consumi e prodotto. Quindi per me in questo momento io non condivido, ecco, l'ottimismo su questo dato dell'inflazione. Ma non c'è nessun ottimismo, infatti. Beh, qualcuno si spiega. Beh, qualcuno che non legge i dati, o non sa di cosa sta parlando, perché adesso non voglio fare Ci mancherebbe se mi metto io a fare professore. Qualcuno c'è. No, è che se le cose... Come? Sì, dico, è incomprensibile l'ottimismo di qualcuno. I numeri no, sono è questi. Che siccome c'è qualcuno che non studia più di qualcuno in questo paese, siamo tutti bravi in orale, meno in scritto, siccome a qualcuno hanno spiegato che l'inflazione quando cresce è anche un segnale di un dinamismo economico, sì se cresce per via dell'aumento dei consumi interni, sui prezzi interni, qui... Se lei ci conferma che è dovuto tutto ai prezzi dei prodotti energetici o derivati dei prodotti energetici o il trasporto gli eventi meteorologici che ahimè abbiamo commentato in particolar modo sull'Abruzzo e non solo a dicembre e che hanno bloccato la produzione di parte del centro Italia, questa è un'inflazione negativa, lo dico a tutti prima che magari qualche esponente politico si lanci in iperboli diciamo non giustificate, non è un buon segnale. Senta, aumentano però anche i prezzi dei beni per la cura della casa della persona, questo ha più 1,1%, questo invece lo archiviamo più come un elemento diciamo congiunturale? Non lo so, abbiamo bisogno di conferme, che più si va nel dettaglio più bisogna guardare i trend di medio periodo, non possiamo guardare mese su mese. Il problema ancora più accentuato è che quello che chiamiamo erroneamente carrello della spesa, si chiama in alta frequenza, cioè quel basket che compriamo spesso, dove ci abbiamo gli affitti, i tabacchi, i giornali, i carburanti, i trasporti urbani, i ristoranti, cioè, e poi effettivamente anche gli alimentari, lì siamo al 2,2%. Quindi riassumendo, se guardiamo anche gli altri paesi, io una preoccupazione aggiuntiva ce l'ho, perché gli altri stanno arrivando al 2%, che è il target della BCE in termini di inflazione. Ora, il presidente Draghi ci ha rassicurato in modo perentorio, forse troppo perentorio, sul fatto che la politica accomodante della Banca Centrale continuerà, però mi sembra che questa prosecuzione sarà sempre più difficoltosa, perché se gli altri arrivano a una crescita in linea con il loro prodotto potenziale, cioè si comportano bene in termini di crescita e hanno un'inflazione nel complesso dell'Europa al 2%, nessuno vieta che fra 8 mesi o 10 mesi tornino a salire i tassi di interesse. Allora la traduco, cioè siccome la BCE può diciamo strizzare l'occhio all'Italia, ma resta la banca centrale europea, non italiana, che cosa succede? Che quando l'inflazione media nell'area euro sarà arrivata intorno al 2%, Mario Draghi non avrà più, tra virgolette, giustificazioni per non aumentare i tassi di interesse, come chiedono i tedeschi, che questo problema non ce l'hanno. Allora, il rischio qual è? Che il 2% lo raggiungono paesi perché hanno un'inflazione buona, così rispondo anche a chi mi dice, ma insomma, sei contento per l'inflazione? No, non sono affatto contento per quello che può valere, come abbiamo appena ribadito. Che la raggiungono i paesi che hanno un'inflazione buona, cioè perché crescono bene e l'occupazione va meglio, la gente spende di più, e noi ci becchiamo una media statistica diciamo europea che porta la BCE a tornare a riflettere sull'aumento dei tassi senza avere un'inflazione buona, cioè con un paese ancora dove i consumi latitano e l'unica inflazione che vedi è quella da importazione, la cosiddetta inflazione importata. Tra l'altro ho visto che dal punto di vista geografico invece sale molto a Trieste e Bolzano sopra il 2%, Roma in fondo alla classifica più 0,7 e Bologna anche più 0,6, rincari più contenuti a Reggio Emilia e Ravenna, e invece il resto si colloca in mezzo, cioè Milano, Napoli, Bari 1,5% di prezzi a consumo in crescita e poi Livorno 1,8, Padova 1,5%. Bella, grazie per aver ribadito appunto che è un'inflazione che preoccupa, quindi speriamo che qualcuno non si lanci in voli pindarici. Noi dopo aver ringraziato il direttore del centro studi di Confcommercio andiamo sul traffico e poi parliamo di questa Europa. Focus Economia. Abbiamo avuto un dialogo costruttivo con le autorità italiane sugli impegni che vogliono prendere per rispettare le linee del patto di stabilità e crescita. In parole povere, questo significa l'adozione di misure strutturali aggiuntive pari allo 0,2% del PIL. La conclusione è che già a partire da oggi ci sarebbe modo di aprire una procedura, ma torneremo sulla questione in primavera, sull'apertura o meno di una procedura. La decisione sarà presa sulla base delle previsioni di primavera e dopo aver verificato il rispetto degli impegni presi. E questi impegni devono essere presi non oltre aprile. Voglio sottolineare che il terremoto e la crisi dei rifugiati sono già totalmente scontati dai conti. Discounted in this assessment. Allora, così Dom Lomvoskis, il vicepresidente della Commissione Europea, dovremmo aprire una procedura già oggi, ma aspettiamo, come dire, diamo all'Italia tempo fino ad aprile, sulla base delle prossime prospettive. L'Italia deve fare di più sulle banche. Moscovici, commissario europeo degli affari economici, dice che l'Italia potrà rispettare le regole. Non siamo fanatici, il dialogo con l'Italia continua, anche dall'Italia arrivano segnali incoraggianti. Però, siccome è settimane che ci occupiamo dello 0,2%, per carità, sono peggiori i danni nel non rispettarlo che questa correzione. Mi chiedo, e giro la domanda a uno degli ospiti che abbiamo ogni tanto, a cui riconosco assieme ad altri una grande onestà intellettuale, e mi riferisco al professor Gustavo Piga, che insegna all'Università di Tor Vergata. Buonasera, Piga. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Dicevo, al di là dello 0,2, per carità, adesso abbiamo capito, ma quando è che si potrà, se si vuole salvare questa Europa, questa idea dell'Europa e dell'area euro, tornare a ragionare su un nuovo trattato di Maastricht? Cioè, qua ci sono due possibilità: o andiamo avanti così, con lo 0,2, 0,1, 0,3, applicato all'Italia perché ha il debito alto, non applicato alla Francia perché ci sono le elezioni, il debito non ce l'ha così alto, e va bene. La Grecia, che di nuovo non è in condizione di pagare il debito, la Germania, che è sempre in surplus per il terzo anno commerciale. Andiamo avanti immaginando che queste piccole aggiustamenti, queste piccole aperture, il famoso piano Juncker, che fuffa era, fuffa è e fuffa sarà, lo dicemmo in tempi non sospetti, e immaginiamo che la gente si convinca che l'Europa ha anche una faccia buona con micro variazioni, e in questo modo a mio avviso continueranno a aumentare i partiti che vogliono buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè questa gestione dell'Europa assieme all'euro, assieme a altre cose positive che l'Europa ha, oppure si chiede una riforma, diciamo un ripensamento del trattato di Maastricht. E si dice, guardate, alcune cose hanno funzionato, altre non hanno funzionato a livello economico. Secondo lei è così un'utopia la mia? Chiesto quando, io le rispondo a fine 2017, quando il Fiscal Compact compirà esattamente 5 anni ed è obbligo degli Stati membri decidere chi farne, visto che in questo momento non è che un mero accordo intergovernativo, se metterlo nella Costituzione europea o se non metterlo. Faccio un passo indietro. Intanto lo 0,2 ha un senso molto forte perché va contro quell'Italia che voleva tenere il deficit costante al 2,3 del 2017, al 2,3 del 2016, al 2,3 del 2017. Quello che l'unica cosa che l'Unione Europea in questo momento non tollera e non farà, apparentemente non acconsente di far fare all'Italia, è quello di mantenere il deficit costante. Quello 0,2 serve soltanto a mandare fuori il segnale che l'Italia continua nel suo percorso di riduzione del deficit. Ora qui ci troviamo di fronte a due enormi pinocchi. Pinocchi sono la Commissione Europea e l'Italia, che hanno fatto un'enorme stupidaggine, che è quella di aver firmato e creato il Fiscal Compact, ma non se la sentono di confessarlo e continuano spudoratamente a mentire. E perché le dico questo? Perché al di là dello 0,2, Padoan e la Commissione Europea hanno detto una cosa molto più rilevante, che conoscono ormai tutti i cittadini, che per il 2018 e per il 2019 l'Italia aumenterà le aliquote IVA così tanto da aumentare il gettito nel 2018 di 19 miliardi e di 24 miliardi nel 2019. È questo che sta scritto nei conti pubblici. Sì, andiamo tutti a casa, nel senso che abbiamo appena commentato un'inflazione negativa che arriva dall'aumento esterno, quindi energia e ortofrutta, e non da un aumento dei consumi. Se aumentiamo l'IVA per 19 miliardi, che vuol dire un punto percentuale di PIL, andiamo tutti a casa qui, glielo dico. Bravissimo. Però c'è un problema, è che anche se non lo fanno, anche se mentono sapendo di mentire, a casa ci andiamo comunque. Sa perché? Perché se io sono un imprenditore e leggo quelle cose che hanno scritto mere bugie, io so che rischio di, se sto considerando investo in Italia o non investo, investirei con l'incertezza di chiedermi, ma alla fine questa manovrona sui miei clienti, i miei consumatori, l'aumento dell'IVA di 20 miliardi, lo fanno o non lo fanno? E nell'incertezza gli imprenditori si rifiutano di farlo, e ecco, ho spiegato il grande caos che abbiamo nei numeri di contabilità italiana, il crollo degli investimenti privati e il perché il prodotto interno lordo dell'Italia continua a stagnare, perché continuiamo a dire bugie, ma quelle bugie creano incertezza, l'incertezza è nemica degli investimenti. E quindi non sono bugie gratis, sono bugie pesantissime, dovute esclusivamente al fiscal compact. E quindi a dicembre lei, per rispondere alla sua domanda, si troverà con la scelta epocale, ed è l'ultimo momento in cui la penna di Gentiloni può incidere autonomamente, nel senso che Gentiloni deve decidere se firmare o non firmare l'ingresso dell'Italia nel fiscal compact, e dopo non si potrà più cambiare se decide di sì. Ma se invece decide di no e decide di dire, cari signori, mettiamoci a un tavolo, perché così l'Europa muore, diventa l'Europa dei populismi, delle uscite, delle lirette, dell'uscita dall'euro, se Gentiloni ha un momento, sarà a fine anno, sarà quello il momento in cui si deciderà tutto. Sì, tra l'altro c'è un motivo anche a fine anno, nel senso che abbiamo le elezioni in Francia ad aprile, Olanda adesso a marzo, e poi soprattutto a settembre in Germania. Allora io posso capire anche che politicamente Bruxelles non possa scontentare il socio, diciamo, il fratello di peso tedesco, e di dare l'idea che questa Europa non è in grado neanche di chiedere all'Italia lo 0,2. Però fatte queste elezioni in Germania, che vinca Schulz o vinca la Merkel, io non voto in Germania, per cui io spero che vinca Schulz e basta. Ma chi se ne frega, quello è il momento in cui non c'è neanche più la scusa elettorale, Piga. Concordo pienamente con lei, sarà un momento importantissimo di verifica, ripeto, non c'è proprio nient'altro da aggiungere. No, io volevo girare però un attimo in positivo, insomma, non per altro, sì, no, lei perché dico magari ha levato, diciamo, il convitato di pietra delle elezioni tedesche, certo, oltre che di quelle francesi, certo. Magari con una paura che si sono presi, viste le proiezioni su Le Pen, che in questo momento è il primo partito in Francia al primo turno, poi probabilmente Macron e Fillon si uniranno e vedremo se poi il 51% dei francesi andrà verso un voto da grande coalizione oppure no. Beh, uno spero che dalle elezioni impari qualcosa, no? Ecco, allora però diciamo, in più cosa dobbiamo fare oltre ad alzare la penna, perché se alziamo la penna e non firmiamo e basta, verremo chiamati i soliti italiani. È ovvio che Gentiloni deve fare quello che non è stato fatto da nessun altro governo e dire, io levo la firma dal fiscal compact perché voglio tenere il deficit italiano al 3% del PIL fino a quando l'Italia non si riprende, però questo 3% io te lo finanzio, e finanzio gli addizionali investimenti pubblici di cui ha in questo momento bisogno l'Italia, con un'enorme lotta agli sprechi che mi autofinanziano i maggiori investimenti, certo, pubblici. Faccio la spending review, perché se tu arrivi a quel tavolo con i tedeschi, carini o non carini, e gli dici guarda che l'Italia smette di entrare nel fiscal compact e basta, beh, quello... Piga, assolutamente d'accordo con lei, che noi abbiamo sempre detto, abbiamo anche la rubrica dopodomani sugli sprechi della pubblica amministrazione italiana, e abbiamo anche detto in tempi non sospetti, ben prima del referendum, che è stato un errore enorme quello del governo Renzi di far fuori Cottarelli così, dopo un piano, dopo un libro bianco, da risparmi per 3 miliardi, per prendere tempo, per non toccare categorie che devono votare referendum, tutto quello che volete. Tu sei credibile se dici, guarda, io faccio pulizia a casa mia e mi aspetto di avere quest'anno 1,5 miliardi, abbiamo fatto 700 milioni di risparmi con la Consip sulle spese accentrate, e con quelli mi finanzio alcune cose. Il deficit lo tengo al 3 o al 2,9, perché questo è il limite massimo previsto dall'Europa. Non mi rompete le palle sul fiscal compact, che è recessivo e non ne abbiamo bisogno. Questo è credibile. Se vai lì e dici semplicemente no al fiscal compact e noi non vogliamo rimodulare la nostra spesa, è ovvio che presti il fianco. Grazie ancora a Gustavo Piga, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.